E dopo Nex con le loro vertigini, il loro vertigo, probabilmente insomma ispirato a non soltanto a Hitchcock, e quindi a una faccenda insomma che non si può ripetere, come probabilmente tentò di fare qualche anno fa qualche regista, appunto arrivando poi ad altre soluzioni, come lui stesso ha affermato, tra l'altro così citando e divagando, andando a trovare History o Film, insomma, cosa eccezionale, che insomma consiglio vivamente di vedere, una serie di DVD appunto sulla storia del cinema, una storia comunque decisamente diversa, anche qua una ricerca di un oltre, anche di un spostamento poi di immaginario anche rispetto alla storia così ufficiale del cinema, sempre che ne esista una insomma ufficiale, visto che poi non si vorrebbe mai storicizzare certa materia che insomma è più faccenda di merceologia più che appunto di cultura e di arte, oppure se arte insomma deve essere sempre un po' venduta, un po' come succede anche con la musica. C'è sempre un po' questo timore rispetto a renderla appunto artistica e farla diventare insomma elite. Lì bisogna andare su un'altra categoria merceologica, no? Magari anche un po' più difficile e così appunto più acculturata, ma insomma senza andare a toccare tasti anche dolenti per quanto riguarda le accademie, le museificazioni anche che esistono appunto delle musiche alte, colte. E qua ci troviamo appunto invece uno spostamento di immaginario, ecco appunto anche qua forse il cinema non era Vertigo, ma chiaramente era Psycho, rifatto da Gus Van Sant, e quindi appunto questo tentativo di replicare, nell'impossibilità di replicare, quindi sapendo insomma di andare in una trove, di creare appunto una situazione che oltrepassa, ma recuperando appunto un'attitudine che è primigenia, cioè nel senso insomma data dall'originale. Ecco, in un certo qual senso Natural Information Society, Bichin Bajas, Nex e anche questi String of Consciousness fanno questo lavoro, un lavoro appunto di sembrerebbe di a prima così analisi di recupero, anche qua vintage, in realtà ribaltano completamente la faccenda recuperando quello che è un'attitudine che non era possibile come vintage, quindi è chiaramente spostata in avanti nell'impossibilità e nella coscienza anche dell'impossibilità di ripetere cose che sono irripetibili, non soltanto in termini qualitativi ma anche proprio in termini semantici. Non si può ripetere una cosa in maniera pedissequa, come dicevo prima, non è possibile, ci si sposta sempre. E allora si può andare dalla parodia o dall'autoparodico, anche con molte cose che insomma diventano anche molto fine a se stessi se non ridicole. Qua appunto vengono recuperate quelle attitudini di grande apertura sonora e di appunto anche rielaborazione della materia, di dialettiche, dicevamo, anche piuttosto stringenti, rigorose, e dentro appunto sintesi che rimettono in discussione e quindi riaprono nuovamente una dialettica incessante, e quella appunto delle musiche e degli autori che abbiamo ascoltato appunto nella prima parte di 451 frammenti sonori, dedicata appunto al disco Auto Imaginary che abbiamo ascoltato proprio all'inizio, e dedicata appunto a questi automatismi che vengono quasi appunto a ricreare quelli psichici dei surrealisti, quelle macchine immaginifiche, immaginarie che stanno dentro il suono del jazz, del drone, della musica contemporanea, nel senso appunto di composizione contemporanea. E con String of Consciousness, tra l'altro, si va dentro una delle formazioni decisamente interessanti per percorso musicale, un collettivo creato da Hervé Vincenti e Philippe Petit, che non è quello che sta sulla corda sulle corde, insomma, e anche qua insomma nel grande immaginario del Novecento. Era Philippe Petit, no? Sì, era lui, no? Quello appunto quando c'erano ancora le due torri gemelle, attraversò in maniera clandestina appunto queste inattraversabili quasi spazi tra le due torri, semplicemente stando insomma in equilibrio su un filo di ferro messo nella notte prima in barba di poliziotti che controllavano la zona, quindi già fu espugnata insomma in una sorta di maniera fantastica, immaginifica e poi reale, realizzata appunto da Philippe Petit. Non è quel Philippe Petit, seppur per certi versi anche lui fa un equilibrismo incredibile, sia con String of Consciousness, questo appunto collettivo che prevede personaggi veramente dai 20 e oltre, musicisti come Andy Diagram, che viene addirittura dalla Wave, da quelle strane figure dub astratte dalla Flying Lizard e in Company, insomma quelle faccende che porterà avanti anche un certo David Tupp poi negli anni 80, e personaggi come la Linka Zubkova, violinista eccezionale, e vari personaggi appunto che stanno dentro alle musiche sperimentali in questo fantasmic acustica, e si sente anche una dialettica rispetto a personaggi come Rob Mazurek, che con Chicago Underground Duo, Trio, Quartet, e Sa Paolo, e Resplendent Star Band, e orchestra, anzi, portano avanti appunto quella dialettica appunto con musiche che vanno veramente a cercare mondi nuovi, a sintetizzare immaginari e suoni appunto che sono immaginifici dentro nuove prospettive musicali. E Petit, tra l'altro, non soltanto con questo String of Consciousness, questo collettivo all'interno, insomma, della faccenda più larga, ma anche con opere strambe, singolari, anche con personaggi che veramente sembrerebbero lontanissimi come mondo da quello di Petit, jazzista e compositore contemporaneo. A volte anche Noise dentro String of Consciousness, andremo anche a trovare l'ultimo disco con anche momenti di Noise magari nelle prossime trasmissioni, ma Felipe T ha fatto un disco a quattro mani o a due voci, nel senso, insomma, di vox in termini più ampi possibili, con Lydia Lunch, per un jazzista, insomma, non è proprio una cosa tanto così standardizzata fare insomma collaborazioni di questo tipo, seppur la Lydia Lunch viene da quel grande sconvolgimento che fu l'anno Wave, quindi con dentro anche free jazzismi impazziti e assolutamente suburbani, ma ad esempio ha partecipato a un album insieme a Edward Caspel che proviene invece da quello strano, altrettanto strano mondo singolarissimo dei leggendari Pinduz, quando si incontravano mondi tra l'industrial e addirittura il barocco, prog, psycho, musiche che per tanti versi sono state catalogate anche come assurde, ma in questo senso troviamo assolutamente un'assurdità feconda. E con terz'ultimo disco, addirittura una collaborazione che forse potrebbe sembrare più tra le corde di un Petit che va anche su ambientazioni, tra l'altro collaborando spesso con Lagu Records, che si occupa fondamentalmente di ambient mischiato con la field recording, e fa anche estringe una collaborazione con Murkoff, personaggio noto ai più anche per questa stilizzazione sonora, questa ambient sempre molto molto calibrata, e con Petit leggermente si sporca la faccenda di Markov, diventa interessante, forse è ancora più malinconica rispetto già a una malinconia che però è sempre molto estetizzata in Murkoff. Qua diventa forse qualcosa di meno, insomma, controllabile, come appunto già le esplorazioni musicali di Petit, sempre inquieto e irrequieto anche con le collaborazioni, con i personaggi che appunto va a coinvolgere. Markov quindi e Philippe Petit, o Philippe Petit e Markov, quindi fate un po' voi, First Chapter, quindi forse prelude a altre collaborazioni, questa è del 2013 appunto per questi due personaggi distanti, però per tanti versi anche, come sentirete, così dialettici appunto, e stasera questa è un po' la parola chiave. Beh, per chi conosce Murkoff sicuramente sarà rimasto un po', non tanto, però un pizzichino stupefatto per essersi così tuffato dentro situazioni sicuramente più vicine alla dark ambient, alla sonorità, insomma, da piccolo inferno mentale, ecco, con anche inserimento di una voce mezzo soprano che è Sarah Giuffroy, che già aveva collaborato con Murkoff, però in chiave sicuramente più eterea. Qua è quasi una sorta di Amanda Gallas implosa, ecco, fatemi passare la cosa, anche se magari qualcuno se la potrebbe anche prendere, non si può mai toccare la grande signora Gallas, insomma, anche perché i fans o quelli, insomma, che seguono la signora Gallas sono molto permalosi. E se con Murkoff e Philippe T si sono toccati appunto queste corde che sono non soltanto gli string gioco di parole di String of Consciousness, prima altro progetto di Petit, quindi con Stream of Consciousness, ovvero il flusso di coscienza, e quindi quel tipo di corde, e ci porta non soltanto appunto dentro appunto grandi flussi di coscienza, ma anche dentro forme, insomma, appunto quasi terrorizzanti, no? Di suoni che diventano affascinanti, e in questo senso, insomma, Murkoff senz'altro tiene questa connotazione, insomma, molto forte. Musiche di Murkoff sono senz'altro affascinanti, attraggono proprio per questa capacità, insomma, estetica decisamente avvertita e avvertibile dentro le sue musiche, che comunque sono sempre in equilibrio e non, appunto, non vanno mai poi nel lezioso. Anzi, in questo disco First Chapter ascoltato appunto con Philippe T, si va tutt'altra faccenda. Sono corde che scendono appunto verso appunto suoni decisamente scuri e volutamente appunto tali, e anche qua, insomma, se vogliamo flussi di coscienza, sì, ma che portano verso pensieri e situazioni non per forza, si potrebbe dire negative, nel senso che appunto potrebbero sembrare tali, poi in realtà non lo sono affatto, nel senso che non si perdono appunto nella semplice oscurità. Infatti il dark ambient, se ha molti limiti come attitudine, e poi quando appunto c'è questa voglia appunto di cercare appunto un altrove, magari attraverso appunto una composizione anche astratta, che quindi sfugge anche appunto alle strette maglie appunto di un suono ottundente appunto nell'oscurità e nel suo farsi appunto ripetitivo, ridondante in questo, no? Lavoro che anzi vive di grandi momenti di ariosità compositiva, questo First Chapter. E per andare un po', come dire, a disciogliere ulteriormente i ghiacci di queste vertigini, di queste soluzioni che appunto riescono a rendere i ghiacci, i flussi che ci portano appunto lontano, appunto travolgendoci quasi, fiumi in piena, prima dicevamo, Auto Imaginary 451, appunto frammenti sonori, vi lascia con pezzo lungo, d'altronde stasera non ci siamo fatti mancare appunto grandi flussi sonori, quello di Kenneth Kirchner. È un mondo per tanti versi molto singolare, nel senso anche di un strano isolamento che probabilmente insomma qualche tempo fa si sarebbe chiamato isolazionista, cioè nel senso di volutamente tale, forse di distacco quasi strategico, e se poi però andiamo anche qua a ben vedere, insomma, anni ne sono passati dal momento appunto dell'isolazionismo, di quello che fu anche insomma un percorso altrettanto infernale come quello ascoltato da Mark Murkoff e Philippe Petit, e quello di Kenneth Kirschen, che viene dalla città più cosmopolita del mondo, dal quartiere insomma che adesso, quartiere insomma si fa per dire, visto che è una città, viene da Brooklyn, e quindi insomma lontano anche da quello che potrebbe essere l'esplosione anche il glam degli ultimi anni di Brooklyn, personaggio che sembrerebbe più vicino a certe corde europee, se non fosse appunto che New York è anche tanto europea quanto asiatica, e quanto veramente forse un po' meno araba, ma vabbè, lì ci sono altre ragioni che vengono dal 2001 in poi, altri immaginari che hanno portato insomma alla situazione attuale insomma da più di 15 anni, che probabilmente sì, ha perso quell'aspetto, forse lo recupererà in altre maniere. New York forse appunto in quanto stratificazione riesce sempre a reinventarsi, quasi appunto come organismo staccato, quasi come città talmente appunto terrena da farsi appunto ogni tanto extra tale per appunto inventare mondi diversi. Probabilmente anche in questo senso Kenneth Kirschner si può inserire dentro una Brooklyn che sfugge, che diventa stranamente ma malinconica nei suoi paesaggi sonori, in questa ricerca sempre quasi affannata di una composizione contemporanea tra minimalismo e ambient e post glitch, tra l'altro uno dei personaggi con cui collabora di più nel corso della non sua ampissima carriera è Terrier Dupri, quindi viene da un sound designer molto legato poi al glitch, alla sperimentazione appunto legate agli errori, e con quella dimensione anche architettonica che Terrier Dupri probabilmente passa in dialettica con Kenneth Kirschner, che appunto sembra quasi spazializzare il suono, sembra quasi cercare dei suoni che vadano a colmare spazi anche tanto spesso svuotati. In questo senso appunto si sente tanto un aspetto malinconico, una visione malinconica, un immaginario malinconico in Kenneth Kirschner, che però appunto poi riesce a spostarlo e quindi a farlo materia altra, dimensione altra, zona, appunto sempre citando grandi momenti insomma visivi del Novecento. E andiamo a prendere dal suo Compression e Rarefaction, di fatto insomma di rarefazioni si tratta, ma anche appunto di compressioni, anche qua oscurità che vengono talmente compresse da rendersi quasi assenze, quasi buchi neri dove appunto trovare anche memorie sonore della contemporaneità del suono, insomma della sperimentazione della classica contemporanea, fino appunto a mondi talmente resi micro e talmente minimalizzati da perdersi, da diventare quasi molecolari. E appunto per concludere questo viaggio dentro Auto Imaginary, così un'assonanza un nome immaginifico che dà anche appunto titolo all'album che ha aperto questa sera, 451 frammenti sonori, quello di Joshua Abrams, Natural Information Society e Bichin Bajas, molto citato, ma d'altronde volevo farlo questa sera perché è un disco assolutamente incredibile per questi anni, per senso e apertura che dà verso un futuro che non viene neanche, come dire, così reso fantasma come in tante volte, quasi a provare, no, a toccare qualcosa di impalpabile in questi ultimi anni, ma proprio vissuto con così la sfrontatezza di chi comunque ha un'idea appunto futuribile, futuristica. D'altronde appunto personaggi che sono passati tra Next, String of Consciousness, Consciousness, scusate, pessimo inglese, e come al solito Murkoff, Philippe T e appunto questo Kenneth Kirchner con il lavoro ultimo del 2015. Lavora appunto su un immaginario che è in espansione, evidentemente non può essere che tale. Vi lascio, vi rimando a domani a 451 intersezioni con Eliseo Scarpa, insomma spero che ci sia, se non c'è comunque c'è lo stesso, ci siamo sempre, anche quando non ci siamo, forse anche quando non ci siamo ci siamo ancora di più. E rimando a mercoledì prossimo per quanto riguarda il sottoscritto con 451 frammenti sonori e appunto alla prochaine, forse il francese un attimino so meglio, ma proprio un attimino, e fate i bravi, come non dirvelo, no? Come al solito.